Pronto? Ciao, benvenuto. Ciao Ronny, siamo Giorgio e Francesca, Futura 1993. Ciao. Raccontaci un po' del tuo progetto e dei tuoi anche dei tuoi piani per i prossimi mesi. Sappiamo che tra un po' uscirà qualcosa di nuovo, no? Stai lavorando a qualcosa di nuovo. Dici un po' qualcosa. Sì, in realtà ho quasi finito il tour. Uh-huh. Però l'ultimissima data, il 28 dicembre, dopodiché mi chiuderò in studio e registrerò i nuovi pezzi, spero di registrare tutto il disco nuovo, e ancora non so la data di uscita, non so niente, però comunque sì, mi dedicherò al nuovo disco. Di cosa parlerà il tuo nuovo disco? Guarda, allora quando scrivo i pezzi mi ispiro a magari dei libri che leggo o dei film o delle storie che mi hanno partito. Sarà sicuramente un concept album. Cioè, vabbè, prima non è un concept album, comunque è molto fresco, cioè ci sono degli elementi. Cosa stai facendo con il telefono che ti stiamo perdendo? Prossimo disco. Ti stiamo perdendo purtroppo. Lo sai che non ti abbiamo non ti sentito. Sentiamo bene, non so perché. Ti sentite? Ecco, ora sì, adesso sì, perfetto. Dicevi che sei ispirato da ciò che leggi e ciò che vedi. Sì, sì. Ma infatti faccio un attimo una top 3 dei tuoi, lo so che è difficile, però dai, così una spolverata di libri e di film. Consigliaci qualcosa. Guarda, ho letto recentemente un libro, guardi, non mi ricordo bene gli autori, si chiama Io sono febbraio. Ok. Non mi ricordo come si chiama l'autore. Beh, non sei come, sei come me che ricordo il contenuto, ma non il titolo. In generale i titoli pure dei miei pezzi non me li ricordo. Bene, buono, ecco cosa serve la scaletta, vedi. Sì, poi un altro libro che mi piace, che mi è piaciuto tantissimo, è Cuore di tenebra di Conrad, bellissimo. Okay. È un classico. Sì. Poi è difficile. In questi giorni sto leggendo I Malavoglia. Ah, dai, cioè, più, sì, più che classico. Sì, sì. Vabbè, no, ma comunque, next step, Promessi sposi. Che succede? Allora il prossimo step saranno i Promessi sposi. Spero di sì. Spero di scrivere un pezzo che parli dei Promessi sposi, magari un disco. E invece a livello di film, cinema, qualche regista, film, non so. Allora, mi piace moltissimo David Lynch. Infatti il mio film preferito si chiama Elephant Man. Abbastanza vecchio. Sì, sì, sì, come film. Ho chiaro. Sì. Poi vi posso dire qualche serie TV. No, ma guarda, adesso a proposito di Elephant Man, io mi ricordo questa copertina molto forte, no? Se non sbaglio, del film, possibile? Questa immagine, mi ricordo questa immagine molto forte in copertina del, cioè mi ricordo io che andavo a noleggiare i DVD alla videoteca, no? Mi ricordo questa immagine molto forte. Ah, sì, sì, è vero. Sì. Infatti, se non sbaglio, cioè il protagonista era veramente così. Esatto. Cioè, a proposito di copertine eccetera, noi volevamo sapere però in realtà se tu ti ispiri a qualche immaginario preciso, oppure se, come dici, cioè trai veramente ispirazione da giorno a giorno, da periodo a periodo, o c'è un film un'estetica, diciamo. Sì. Guarda, vi posso dire che per Himalaya, per il primo disco, ho tratto ispirazione da questo libro di Pierre Coulthard, Tavola per la storia dei sopravvissuti delle Ande. quindi è incentrato tutto su quella storia. Infatti i temi principali sono il freddo, la sopravvivenza, lo spirito di gruppo. Quindi quel disco l'ho fatto così. Poi c'erano anche c'erano un paio di pezzi che si distaccano dal resto, da quella storia, sì, è che sono Tenebra e Frank. Te li ricordi i titoli, no? vedi sì, ma sono gli unici. Sono gli unici. Ora sto facendo un mente locale, sì. No, ma in generale dipende, capite che trovo un libro in offerta, lo compro. mi piace la storia, ci scrivo un pezzo, perché in realtà dovete sapere che questo progetto nasce 2 anni fa. Mi ricordo che volevo scrivere pezzi per i cartoni animati. Fantastico, bello. Sì, poi non ce l'ho fatta. Perché non ce l'hai fatta? È perché chi l'ha detto? Magari ce la fai domani. Sì, ma infatti il mio obiettivo resta sempre quello. Io voglio adesso la sigla di Doraemon fatta da gigante, vi prego. O Toy Story. Tanto stanno per rifare un altro Toy Story nel 2019, quindi voglio dire. La sigla di Toy Story però non me la ricordo. Come no? Hai un amico in me. Ah, ti ho un amico. Ragazzi, cioè, state un attimo sul pezzo, vi prego. Sì. Ma infatti, come nasce adesso, a parte tutto, il tuo progetto? Come nasce? Raccontaci. Sì, perché infatti io mi ricordo che tu facevi il bassista per i Mustache Prone. Sì. Sì, ho fatto 2 dischi con i Mustache Prone, abbiamo fatto molti tour, siamo andati pure in Giappone. Mi ricordo. Abbiamo girato bene un bel po'. Poi a un certo punto avevo l'esigenza di scrivere qualcosa di mio. In realtà, inizialmente, come vi dicevo, volevo scrivere volevo fare le sigle dei cartoni animati. Ok. Sì, infatti, non so se avete visto, c'è un video di Kenny il Guerriero. Sì? La cover di Kenny il Guerriero. Sì, meraviglia, sì, meraviglia. Notato. La prossima è Sailor Moon, abbiamo già scelto noi, Ronny. Ok, perfetto. Devo parlare con il mio manager. Devi convincerlo. Chi è il tuo manager, Ronny? Eh? Chi è il tuo manager? Fatti affari tuoi. Che ne sai? Lascia fa. Top secret. Com'è? Oh, vedi? Io so che tu sei con Marte Label, è vero o no? Sì. Ecco, vedi, già questo è un punto a nostro vantaggio. Ma tu devi, guarda, l'ufficio sei veramente stampa e foresta promotion. Sei l'impicciona l'algoritmo. Ragazzi, questo è un corso per gli ascoltatori, in realtà, per diventare degli scout, per fare management, per fare, non so, gli A&R. In realtà, piano piano, vedi che sei una pazza. Sì, non sì, ascoltare in Ron, ti prego. È un corso. No, va bene. Va bene, prima di delirare, noi ti ringraziamo tantissimo, Ronny, ovviamente. Ringraziamo ancora Ronny per